Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. L'Italia torna a crescere, secondo i dati OCSE, fa meglio della media europea. Napolitano sulla ricerca, troppe parole, dice, e pochi fatti. Potenza Calcio, arrestato il presidente Postiglione, società gestita in modo mafioso, dicono i PM. Salta la panchina di Zeman a Palermo dopo il pareggio con il Catania. Ancora un buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano dunque la pagina economica, a cominciare dai dati OCSE, non male per il nostro paese, come ci racconta adesso Deborah Rosciani. Sì, buongiorno Piera, effettivamente cominciamo un po' con i dati generali rispetto alla indagine appunto OCSE. Nel terzo trimestre di quest'anno il PIL nell'intera area è cresciuto dello 0,8% rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre la crescita dei paesi OCSE si era invece fermata, registrando 1-0. L'Italia, che nel terzo trimestre di quest'anno ha messo a segno una crescita dell'economia dopo 5 trimestri negativi, registra, riferisce l'OCSE, un più 0,6% rispetto al trimestre precedente. È leggermente, questo dato italiano, inferiore ai paesi del G7, ma superiore sia alla media europea che all'area euro. Ma non è tutto qua, perché il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, parliamo ovviamente sempre di tematiche macroeconomiche questa mattina, è intervenuto all'assemblea annuale della Confederation of British Industry e ha detto: la tempesta è passata, il peggio è stato evitato, ma l'economia globale resta ancora molto vulnerabile, soprattutto nei paesi avanzati, dove è ancora dipendente dal sostegno della politica. La crescita economica è in ripresa, ma ci vorrà del tempo prima che l'occupazione la segua, per cui un quadro positivo quello dell'OCSE, un invito un po' di più alla prudenza da parte del Fondo Monetario Internazionale. In tutto questo oggi la borsa è estremamente positiva, abbiamo dei rialzi di oltre un punto e mezzo in tutti i listini del vecchio continente e Milano sta guadagnando un punto, un nuovo record dell'oro toccato questa mattina a $1,164 l'oncia. È tutto Piera. Grazie a Deborah Rosciani. Ed ora il nuovo appello di Napolitano alla coesione nazionale e al rilancio nel campo della ricerca. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il capitolo ricerca in primo piano, sugli investimenti per lo sviluppo ci giochiamo il nostro futuro, dice il Presidente della Repubblica Napolitano, che aggiunge: a parole nessuno lo nega, poi tra parole e fatti spesso ci sono differenze notevoli. Dobbiamo insistere perché ci siano investimenti pubblici e privati nella ricerca, dice ancora il Presidente della Repubblica, che ha visitato questa mattina gli stabilimenti di un'azienda del gruppo Finmeccanica che opera in un settore tecnologico avanzato per i sistemi di sicurezza. Le eccellenze nella ricerca, come il gruppo Finmeccanica, ha fatto capire il Capo dello Stato, sono l'esempio migliore di come si possa fronteggiare la crisi economica. È tornato poi il Capo dello Stato su un tema a lui caro, la coesione nazionale, ed è per questo un vero e proprio appello quello che il Presidente della Repubblica ha lanciato a 360 gradi. È necessario fare sistema, ha detto Napolitano, attorno alle questioni vitali per il nostro futuro. Per questo, ha spiegato, è fondamentale che si realizzi il massimo possibile di unità delle forze politiche ed istituzionali. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Processo breve, secondo il Ministro della Giustizia Alfano, il PM Spataro e l'Associazione Nazionale Magistrati continuano ad attaccare la percentuale dell'1% di processi che avrebbero conseguenze dal disegno di legge del processo breve, dato fornito dallo stesso Alfano qualche giorno fa, senza fornire però un dato alternativo. Questo dimostra, ha detto Alfano, che non hanno un numero alternativo da offrire, cioè non riescono a contestare nel merito. Alfano ha poi spiegato che in finanziaria chiederà maggiori risorse per la giustizia, sapendo di poter contare sulla disponibilità dell'intero governo, del PDL e del Presidente della Camera. A proposito di Berlusconi, Alfano ha sottolineato che le inchieste riguardanti il Presidente del Consiglio sono cominciate nel 94, quando Berlusconi è entrato in politica. Questa invece è cronaca, a partire dall'inchiesta sul calcio scommesse e non solo. Un giro di scommesse, ma anche minacce, intimidazioni e un metodo che gli inquirenti hanno riconosciuto come mafioso. Sono questi fatti al centro dell'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della squadra di calcio di prima divisione Potenza Football Club, Giuseppe Postiglione, e di altre 8 persone. Nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Potenza Rocco Pavese, che ha accolto la richiesta del PM della direzione distrettuale antimafia Francesco Basentini, tra i reati contestati c'è l'associazione per delinquere finalizzata alle frodi nelle competizioni competizioni sportive con l'aggravante del metodo mafioso. E tra i 9 arrestati c'è il boss Antonio Cossidente, già condannato nel processo alla cosca mafiosa lucana dei Basilischi. Una decina gli incontri su cui sono stati raccolti riscontri definiti oggettivi, tra cui una partita del campionato di Serie B 2007-2008, Ravenna-Lecce, finita 3-1 per i pugliesi, e alcune di prima divisione tra il 2007 e il 2009, compresa Potenza Salernitana, match che secondo gli inquirenti il gruppo che fa capo a Postiglione avrebbe venduto ai dirigenti campani per 150.000 euro. In carcere sono finiti anche alcuni collaboratori di Postiglione, mentre un dirigente sportivo della Provastese, Luca Evangelista, è l'unico dei 9 a cui sono stati concessi i domiciliari. Paolo Piacenza, GR24. Il Sole 24 Ore. Incontro stamattina a Roma fra associazioni gay e trans e la squadra mobile per discutere di sicurezza dopo la morte di Brenda. Chi sa qualcosa si faccia avanti. È l'appello delle associazioni gay e trans di Roma dopo la morte di Brenda, la brasiliana coinvolta nello scandalo Marrazzo. Lo chiedono pubblicamente dopo un incontro con il capo della squadra mobile della capitale, Vittorio Rizzi. Per chi denuncerà i giri di sfruttamento e fornirà elementi utili alle indagini, la questura assicura protezione, come previsto dalla legge. A seguire, programmi di reinserimento sociale. La presidente dell'associazione per l'identità di genere Libellula, Leila Dayanis. Anche le persone trans devono avere una consapevolezza che questo è un giro molto grande, è un giro più grande di loro, per cui è logico che la paura, però io dico non avete paura, se voi sapete la verità collaborate con la magistratura. Ma anche dal computer di Brenda potrebbero arrivare presto risposte utili per fare luce sulla sua morte, avvenuta all'alba di venerdì scorso per asfissia, dopo l'incendio scoppiato nel monolocale di Via Due Ponti. Per gli inquirenti la pista dell'omicidio rimane prevalente su quella accidentale e del suicidio, ma ci sono ancora molti punti da chiarire, ad esempio che fine abbia fatto uno dei telefoni cellulari di Brenda, mentre sembra non ci siano molte possibilità, almeno al momento, di identificare l'ultimo cliente della trans. Maria Chiara Grandis, GR24. Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero, a partire da quanto accaduto nelle Filippine, ci racconta tutto Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. È finito in strage un sequestro di massa nel sud delle Filippine, più precisamente nella provincia di Mindanao, condotto da un centinaio di uomini armati contro un gruppo di persone che volevano presentare una candidatura politica. Almeno 29 persone, tra cui 13 donne, sono rimaste uccise. Alcune sarebbero state decapitate. I sequestratori, secondo l'esercito, sono i miliziani del governatore della provincia in carica, che volevano impedire la candidatura del suo rivale alle prossime elezioni amministrative previste nel maggio del 2010 insieme alle presidenziali e alle politiche. I regolamenti di conti e le violenze tra clan rivali sono tutt'altro che rari nelle sud delle Filippine, zona nota anche per essere teatro del conflitto tra esercito e ribelli separatisti musulmani. Ed è tutto per ora, linea allo studio. Grazie ad Adriana Fracchia. Replica di Franco Frattini al capogruppo del PSE all'Europarlamento Martin Schulz, che in un'intervista aveva accusato il governo e il premier Berlusconi di aver fatto cadere la candidatura di Massimo D'Alema a Mr. Pesce. Spendo solo due parole per replicare a Schulz che è il vero autore del fallimento clamoroso di D'Alema, ha detto il ministro degli esteri Frattini. Sono bugie e tutta l'Europa lo sa. In vista del vertice ONU sul clima che si terrà a Copenaghen dal 7 al 18 dicembre, oggi a Bruxelles riunione straordinaria dei 27 ministri dell'ambiente dell'Unione Europea. Vogliono infatti mettere a punto una strategia comune, soprattutto dopo che il vertice di Copenaghen sembra aver perso importanza. Ed ora a Ramallah, in Cisgiordania, che prova a uscire dall'emergenza proprio grazie a dei progetti verdi. Sentiamo. Questo che avete appena sentito accadeva a Ramallah il 9 novembre. Nel clou delle celebrazioni per la caduta del muro di Berlino, in questa striscia di terra ci si scontrava davanti al muro che divide israeliani da palestinesi. 10 giorni dopo, sempre a Ramallah, si teneva una conferenza internazionale organizzata da ONU e ambasciata italiana su architettura ecosostenibile e energie alternative come fonte di indipendenza economica per i territori palestinesi. Una buona notizia se si parte dal fatto che un progetto è stato già realizzato. Si tratta della scuola di Gerico, costruita con copertoni riciclati e terra. Il progetto e la realizzazione sono dell'Onlus italiana Vento di Terra. Al convegno c'era anche Mario Cuccinella, ovvero una delle punte di diamante della bioarchitettura internazionale. Il vero cambiamento della sostenibilità non è quello di vecchi principi su nuove idee, qui proprio bisogna cambiare il modo con cui approcciare. Se la responsabilità è una, la consapevolezza è uno dei temi fondamentali del pensiero green, però bisogna che cambiamo anche i metodi, no? Sia per la politica che per i professionisti bisogna entrare in un'era di dialogo. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Si era vaccinata contro l'influenza A, la donna di 45 anni morta ieri ad Agrigento, era comunque affetta da gravi patologie croniche. La pandemia sembra comunque rallentare, come ci conferma Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Il picco potremmo anche averlo raggiunto, cioè abbiamo avuto più di 100.000 casi al giorno in Italia per un paio di settimane in seguito, quindi diciamo che comunque sì, abbiamo raggiunto un picco piuttosto elevato. Questo non vuol dire però che le cose necessariamente volgano verso una diminuzione rilevante dell'influenza. Questo virus, come tutti gli altri virus influenzali, può fare delle mutazioni. Questo non vuol dire che il virus sia mutato, per cui adesso ci dobbiamo aspettare immediatamente una nuova ondata dovuta a un virus diverso da quello di prima. Questo no. Abbiamo però osservato a partire da aprile di quest'anno un certo numero di virus che hanno avuto questa mutazione, quindi queste piccole mutazioni non è che preoccupino troppo, è chiaro, vanno seguite sempre con molta attenzione e bisogna rinnovare sempre l'invito, quindi soprattutto ai malati cronici in questo momento e alle donne gravide, secondo e terzo trimestre di gravidanza, a vaccinarsi. Accade domani, si chiama così il premio d'Italia Futura che viene consegnato oggi ai giovani talenti, ci spiega meglio Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, dalla Baby Finanza al Portale della Solidarietà, dal Mamma Taxi al Parlamento dei Giovani. Sono tante piccole idee per la soluzione di tanti piccoli e grandi problemi della vita quotidiana, quelle arrivate al concorso organizzato da Italia Futura. C'è il progetto per rimettere in circolo i prodotti alimentari in scadenza nei supermercati, quello per l'inserimento lavorativo dei giovani detenuti nella produzione agricola biologica, quello per il riciclo dei prodotti per l'infanzia. Sono 450 progetti in tutto, a premiare i vincitori poco fa il presidente della Fiat Luca Cordero di Montezemolo. Il vincitore di Accade domani, che si è aggiudicato 30.000 euro, è Raffaele Mauro, un giovane che ha puntato a ripristinare gli ecosistemi imprenditoriali nei comuni colpiti dal terremoto dell'Abruzzo, un progetto di microcredito non legato agli aiuti pubblici per dare respiro a tante piccole aziende di quella regione. Lo spirito, ha detto Montezemolo, è quello di far emergere tanti talenti e centri di eccellenza, stimolando una società civile trasversale. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Voli irregolari mercoledì 25 novembre. Il ministro dei trasporti Matteoli ha differito una serie di scioperi nel settore aereo. Le principali notizie della mattinata: l'Italia torna a crescere secondo i dati OCSE e fa meglio della media europea. Potenza Calcio, arrestato il presidente Postiglione, società gestita in modo mafioso, dicono i PM. Salta la panchina di Zeman a Palermo dopo il pareggio con il Catania. Seconda parte di GR24, ripartiamo dalla cronaca che ci porta a Milano. Se ne è parlato molto nel fine settimana dello sgombero del campo Rom di via Rubattino. Donne e bambini hanno trovato rifugio presso famiglie del quartiere o strutture. Gli uomini si sono invece rifugiati per un paio di giorni nella chiesa di Sant'Ignazio. Ma ora che cosa accadrà? Katia Caramelli ha sentito la consigliera di Rifondazione Ines Quartieri, che sta seguendo la vicenda. Chiaramente le persone che lì vivevano in una situazione di degrado inaccettabile. Tuttavia, prima di procedere ad uno sgombero, bisognava trovare delle soluzioni alternative, anche date dal fatto che giovedì mattina in via Rubattino, oltre ad esserci 200 persone rom adulte, c'erano almeno 80 bambini e io li ho visti perché c'ero. Il rispetto della dignità anche umana e della situazione doveva prevedere, dal momento che era uno sgombero annunciato, prima una pianificazione, quantomeno per quelle famiglie che si sono comunque dimostrate aperte verso un percorso di integrazione. Lì c'erano 40 bambini che andavano regolarmente a scuola, testimoniato dai genitori dei bambini italiani, i loro compagni, dalle maestre. Tra l'altro con scene un po', mi permetta, la Schindler List, nel senso tutte ste mamme in fila con i loro bambini, con i sacchi, a farsi vagliare, ecco, dagli incaricati del comune se avevano i requisiti per. Chiaramente poi la lista è diminuita rapidamente. Quindi attualmente queste persone sono per strada? Sono stati trovati posti per delle donne e bambini, ma mi creda, è una soluzione temporanea di 2 o 3 giorni. Solo donne e bambini e gli uomini solo donne per strada? Gli uomini, la chiesa, la parrocchia alla fine ha messo a disposizione uno scantinato sotto un salone, ma ieri mattina già hanno dovuto andar via e adesso sono dispersi in giro. Avete ragione, quelli che stanno telefonando giustamente stanno segnalando che non è ovviamente Zeman quello rimosso a Palermo, ma Zenga. Mi scuso con tutti voi, naturalmente ho fatto un errore. Andiamo avanti con GR24, questo era il nostro sondaggio di oggi. In Spagna è già nato, si chiama Prune, è il primo partito islamico in Europa e già c'è chi mette in guardia la nuova minaccia. E se arrivasse in Italia, voi sareste d'accordo con la nascita di un partito islamico? Era il nostro sondaggio di oggi, l'84% di voi ha espresso un secco no. Mario Borghezio, eurodeputato leghista, ha investito del problema anche l'Unione Europea e nel denunciare il rischio del proliferare del fondamentalismo islamico non si lascia sfuggire occasione per criticare il presidente della Camera Fini e i suoi insulti a chi considera gli immigrati diversi. Sì, essere anche chiari, alle volte anche volutamente duri e alle volte anche sgradevoli sui principi come questo, no al partito islamico. Ci si può guadagnare da parte della terza carica dello Stato questo gentile epiteto di stronzi. Guardi, io mi sento onorato di sentirmi chiamato così. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Torniamo all'estero. Un ex vicepresidente iraniano condannato a 6 anni perché accusato di aver fomentato le proteste dopo le elezioni presidenziali di giugno. Ieri il leader riformista Mousawi ha detto che il suo movimento continuerà a contestare Ahmadinejad anche a costo della vita. Ma che possibilità ci sono che queste proteste portino ad un vero cambiamento? Alessandra Tedesco l'ha chiesto alla scrittrice iraniana Azar Nafisi, l'autrice del bestseller Leggere Lolita Teheran, che ora vive negli Stati Uniti. Era stata cacciata dall'università dove insegnava perché non voleva indossare il velo. Sentiamola. I think it can lead to change for two reasons. Credo che la situazione cambierà per 2 ragioni. Una è che la società civile iraniana negli ultimi 30 anni ha sempre protestato contro la repressione. Le proteste sono state soffocate, ma poi sono sempre tornate. E questo mostra che nella società c'è un desiderio di cambiamento. La seconda cosa è che questo grande desiderio di cambiamento da parte della gente ha creato divisioni all'interno del regime. Mousavi e Karoubi fanno parte del regime islamico, ma ora lo stanno contestando. Sfortunatamente Ahmadinejad sta rispondendo alle proteste pacifiche con le armi. Vuol dire che è spaventato dalle proteste. Io credo nel cambiamento dell'Iran, perché sta avvenendo attraverso elementi democratici, grazie a una forte società civile. E questa è l'unica via che porta a un vero cambiamento. In un'intervista dell'aprile del 2009 lei diceva: «Credo nella società iraniana, la politica dovrà adeguarsi». La pensa ancora così? Insomma, è ottimista sulla possibilità di cambiare da parte dell'Iran? La mia unica speranza è nella società civile iraniana. Io credo che l'unico modo in cui la società può cambiare radicalmente è attraverso strumenti democratici. Il regime può essere inflessibile, ma questo crea contraddizioni. L'unica cosa che possono fare è cambiare se stessi, accettare il cambiamento. Naturalmente io non vedo che Ahmadinejad si stia adattando al cambiamento, ma è sciocco non farlo. Lei è in contatto con qualcuno che sta partecipando alle proteste e se sì, che notizie le dà del tipo di persecuzione anche che subiscono? La maggior parte dei contatti che ho, a parte gli amici, sono con persone molto giovani. Da una parte sono molto in ansia, perché loro mi raccontano in che modo stanno cercando di non mollare e mi raccontano anche come gli slogan stiano diventando sempre più radicali. Ora lo slogan principale è «Morte contro la dittatura», ma nello stesso tempo loro stanno usando nuovi metodi, nuove tattiche di lotta, che per il regime sono difficili da contrastare. Stanno diventando molto creativi e io credo che soprattutto i giovani siano il cuore di questa protesta. Paradossalmente sono i figli della rivoluzione. Ecco, passiamo a una notizia piuttosto bizzarra, perché la rivista Rolling Stone Italia ha nominato Silvio Berlusconi rockstar dell'anno per gli evidenti meriti raccolti dal Cavaliere, recitano le motivazioni, capace come nessun altro di stare sotto le luci della ribalta e distinguersi per il suo stile di vita degno delle migliori rockstar. Torniamo sul calcio, ieri il pareggio con il Catania, oggi il ben servito all'allenatore del Palermo, Zenga. Lo aveva strappato al Catania dopo l'ottimo scorso campionato, affidandogli una formazione, quella del Palermo, senza dubbio più strutturata, nella speranza che i risultati rispecchiassero le proporzioni. Non è andata così, nonostante qualche picco di ottimo livello, come la vittoria sulla Juventus, e Zamparini, si sa, di pazienza con gli allenatori non ne ha mai avuto molta. Vivacchiare a metà classifica non era evidentemente negli intendimenti del focoso presidente, che così, dopo un altro risicato pareggio nel derby siciliano e una serata di consultazioni trasversali, ha impugnato carta e penna per l'ennesima volta, ha steso la formula di rito, rifilando il ben servito al neopapà e augurandogli migliori fortune. Auguri che serviranno paradossalmente pure al successore di Zenga, il prossimo Dead Man Walking, pronto a rischiare testa e faccia alla corte di Zamparini. Prima scelta degli Orossi, ma potrebbero arrivare anche Beretta, ora che la trattativa col Siena sembra sfumata, oppure Daniele Arrigoni. Lara Vecchio, GR24, il Sole 24 Ore. Ed ora torniamo sul nuovo brutto episodio che vede coinvolto Balotelli. Se saltelli muori Balotelli, era lo slogan più gettonato ieri a Torino durante Juventus Udinese, una specie di prova generale dell'idiozia da stadio in vista della sfida con l'Inter del 5 dicembre. Cosa si può dire ancora? Che è una vergogna? Che a un centravanti biondo non farebbero buu? Tutto già detto, e più lo si rimarca, come ha fatto la Juventus, e più questi simpaticoni ci prendono gusto, perché l'ultra ha bisogno di un bersaglio. Oggi è un nero, domani un romano, poi un alieno, poi chissà, basta che ci sia un nemico. Il problema è che l'ultra respira l'aria del suo tempo, e in Italia di questi tempi l'aria è cattiva, diffidente, e il calcio la fa sua. Il Corriere della Sera invita Lippi a portare Balotelli in Sudafrica, a prescindere, per dimostrare che Mario è un nostro patrimonio nazionale. Lippi, questo invito, farebbe bene a seguirlo non perché è buono, ma perché Balotelli è un giocatore straordinario e non portarlo in Sudafrica sarebbe sì da fischi e lazzi. Quanto a Mario, si rassegna a diventare grande, basta linguacce, basta reazioni da ragazzaccio. Nel calcio, aver 19 anni è il peggiore dei peccati. Dario Ceccarelli, GR24, il Sole 24 Ore. Le notizie principali della mattinata che abbiamo trattato in questo GR24. L'Italia torna a crescere secondo i dati OCSE e fa meglio della media europea, dunque buone notizie. Queste invece un po' meno, Napolitano sulla ricerca, troppe parole dice e pochi i fatti. Potenza Calcio, arrestato il presidente Postiglione, società gestita in modo mafioso secondo IPM. Poi l'abbiamo sentito poco fa, è saltata la panchina di Zenga a Palermo dopo il pareggio con il Catania. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.